sul seminario permanente ha come ospite Mario Galsigna, tutti voi, appunto, voi conoscete, professore all'Università di Venezia, a lungo ha lavorato a lungo a Parigi, dove ha avuto un rapporto di collaborazione intellettuale e, diciamo, di discepolanza, nel senso che sappiamo, con Michel Foucault, ha vissuto dall'interno il magistero foucaultiano, ha avuto modo anche di conoscere il suo laboratorio, gli strumenti che Michel Foucault adoperava per il suo lavoro, e poi ha sviluppato in proprio una traccia di ricerca che è legata in particolare alla storia delle scienze, ma in particolare alla psicoanalisi, alla psichiatria, all'analisi delle passioni dell'anima, tematica moderna quanto mai, di matrice cartesiana, eccetera. E stasera terrà una lezione su temi che hanno direttamente a che fare con le tematiche del potere, o meglio della analitica del potere. Qui ricorderò che per Foucault il potere può dar luogo soltanto a un'analitica, una mappatura, una cartografia. Non si può dare propriamente teoria del potere, perché il potere è una fattualità per lui, in qualche modo si dà semplicemente. E le diverse forme di potere in Foucault vengono analizzate, in Galsigna assumono una caratterizzazione un po' diversa, nel senso che Foucault rappresenta il punto di partenza per una ulteriore articolazione delle forme di potere. La lezione si intitola, come sapete, Nodi della modernità, dispositivi e processi di soggettivazione. Dispositivo, come sapete, è una delle parole chiave di Foucault, messa in luce soprattutto da Deleuze dopo la morte di Foucault in un pregevole saggio, poi ripresa in qualche modo da pensatori italiani come Giorgio Agamben e altri, ma soprattutto messa in luce con grande sagacia da Deleuze. Abbiamo invitato, come discussant, come si dice, della lezione di Mario Galsigna, Ida Domignani, che non è soltanto un'esperta di questi temi, ma ha sviluppato un'analisi, un discorso intorno al potere a partire dal pensiero della differenza, e quindi in qualche modo potrà interagire in maniera assolutamente feconda, preziosa, con l'impostazione di Galsigna, al quale do immediatamente la parola. Io ringrazio la Fondazione Basso, Giacomo, per la sua ospitalità. Sono molto contento di avere qui al tavolo una vecchia conoscenza, Ida Domignani, che mi riporta a mie antichissime collaborazioni al Manifesto. Ecco, e comunque Ida è sempre stata per me un punto di riferimento molto, molto importante in quest'area disastrata che è la sinistra italiana, insomma. Ecco. Allora, caso di dirlo. Sì, io vorrei cominciare, lezione mi pare una parola troppo aulica, diciamo una chiacchierata, una conversazione, anche perché non amo preparare testi scritti, quindi mi affido un po', ho una traccia in testa e mi affido un po' alle dinamiche che poi si sviluppano anche nell'ambito della discussione, anche per sviluppare più profondamente i temi proposti inizialmente. Vorrei partire da una frase che Giacomo ha citato in un suo articolo, che poi è una prefazione a un libro di Herta Müller, no? Ah, l'hai già letto? Sì, sì, l'ho già letto. Sono veloce. Un video, ecco, allora, scrive Herta Müller, non sono cresciuta, ma sono stata cresciuta, no? Che è una frase straordinaria questa, no? Ecco, allora io volevo proprio lavorare su questa polarità, crescere, andare avanti con relativi livelli di autonomia ed essere cresciuti, ed essere formati, ed essere forgiati dai meccanismi del potere, del sapere, dei condizionamenti economici, dei condizionamenti culturali, eccetera, eccetera. Vorrei cioè focalizzare la mia attenzione su questa presunta dicotomia, no? Che emerge anche dalla lettura dell'opera di Foucault, ma non solo dalla sua, insomma, tra, io amerei sintetizzare un po' tutto il percorso con due espressioni chiave, tra soggetto costituito e soggetto costituente. Il Foucault, che noi conosciamo meglio, diciamo, che ha anche fornito armi alle volgarizzazioni, alle banalizzazioni, diciamocelo chiaro, no? Il Foucault degli anni 70, il Foucault più politico, il Foucault che, non so, per dirvene una, ha eliminato dall'edizione degli anni 70 della Storia della Follia quella bellissima preface del 61, no? Che era bellissima. Che era stupenda, no? Adesso io ho appena concluso con Rizzoli un accordo, facciamo una nuova edizione, curerò una nuova edizione della Storia della Follia, reintegrando sia il capitolo mancante, il folle nel giardino delle specie, che non abbiamo mai capito nessuno, ma perché è stato eliminato dalla traduzione. Cioè, un capitolo intero, piuttosto importante, anche perché aveva a che fare con i problemi della tassonomia, con la logica classificatoria, eccetera. Poi ci sono una ventina di pagine saltate dal traduttore, peraltro di grande qualità, un traduttore che manipola benissimo la lingua, credo che sia un italianista che lavora in America adesso, Franco Ferrucci si chiama. Sì, lo conosciamo molto bene. Ah sì, eh? Sì, ecco. A me però piace quel lavoro di traduzione che lui ha fatto, ecco. Sì, però vabbè. Vabbè, insomma, vabbè. Mi limito a dire che la sua è una buona traduzione, con però delle lacune che vogliamo colmare, e quindi ristabiliamo un po' la Storia della Follia in un'edizione integrale, comprese gli annessi che invece i francesi non mettono mai, tutta la discussione con Derrida, queste cose qua. Ecco, il Foucault degli anni 70 è il Foucault che, diciamo, è più attento a valorizzare il suo percorso analitico relativo a questa, passatemi la formuletta che io vi ho proposto, al soggetto costituito. Cioè il Foucault che si interroga sulle trame della costituzione del soggetto, della formazione del soggetto. Per cogliere un po' il senso, lo spirito di questa presunta, secondo me, falsa dicotomia, vi rinvio a un vecchio libro del 69, in cui un nostro valente filosofo, Paolo Caruso, intervistò unitamente, nello stesso volume comparvero le tre interviste, Lacan, Lévi-Strauss e Foucault, dove Lévi-Strauss dà una definizione proprio, no? Secondo me icastica, formidabile, veramente molto lucida e disincantata, di quello che io definisco il soggetto costituito. Cioè, dice Lévi-Strauss, in fondo tutta la mia storia di antropologo, insomma, era già una storia lunga, già nel 69, sapete che è morto da poco, centenario, e io ho lavorato, ho costruito un inventario delle costrizioni mentali. Lui in questo senso dice, io sono stato kantiano, no? Lui interpreta l'a priori kantiano, in termini proprio di costrizione mentale, cioè cos'è che mi condiziona, cos'è che è inculcato nella mia mente, che prescinde dalla mia capacità di scelta, no? Quali sono i miei a priori, sostanzialmente? Ecco, quali sono le costrizioni mentali che io utilizzo, i miei occhiali, come amo dire io ai miei studenti quando faccio i corsi sulla clinica, gli occhiali che ho per guardare l'altro, no? Sono portatori dei miei a priori, no? Io non guardo l'altro in maniera libera, lo guardo sempre attraverso il filtro dei miei a priori, dei processi che mi hanno formato, costituito come soggetto pensante, come operatore, come tutto quello che volete. Oh no, si figuri, siamo abituati ormai a queste interferenze. Siamo costituiti, no? Da questi piccoli dispositivi che sono gli telefonini. Ecco, allora Lévi-Strauss metteva l'accento su questo, sul fatto che però per pensare alla libertà, pensate, il grande padre dello strutturalismo antropologico, l'ultradeterminista Lévi-Strauss, che parla di libertà e che dice: non può esservi libertà se non c'è la consapevolezza degli a priori che mi condizionano. E questa è una profonda lezione che Foucault in qualche modo fa sua, no? Fa sua, per i debiti di Foucault verso Lévi-Strauss sarebbero tutto un capitolo interessante da approfondire, e verso lo strutturalismo in generale, ma verso Lévi-Strauss in particolare. Cioè, sono predeterminato in qualche modo da degli a priori, dentro i quali potete metterci un po' tutto, no? La mia storia familiare, il mondo al quale appartengo, la cultura dalla quale emergo, e così via. Ecco, è chiaro che costruirsi uno spazio di libertà fuori dalla lucida e disincantata consapevolezza di quali sono i meccanismi che la condizionano, che la coartano, sembra quasi un paradosso, ma è proprio così. Non si dà libertà senza consapevolezza dei meccanismi che la limitano. E questo, se volete, secondo me, io la faccio un po' breve perché è favorito anche dall'ambiente raccolto, dal piccolo numero che a me mi ispira sempre, mi dà più l'aria di essere in un seminario che in queste strutture un po' pallose che sono quello che fa il discorso. Le sujet supposé savoir, come diceva Lacan, ecco, io non so nulla, ho imparato alcune cose, cerco di portare qui dei problemi più che delle certezze, insomma, cioè le certezze non mi abitano, io non sono molto incline a farmi abitare da certezze, insomma, quando me ne arriva qualcuna sento sempre una forma di prurito, di orticaria, insomma, no? Ho sempre la sensazione che qualcuno mi stia giocando qualche brutto tiro quando mi sento invaso da certezze. Vabbè, a parte questo, ecco, la questione è proprio questa, cioè di costruire la mia libertà soggettiva a partire dalla consapevolezza dei meccanismi che la coartano. Se noi guardiamo all'itinerario di Foucault, il passaggio dagli anni 70 agli anni 80, in fondo, a ben guardare, sintetizzo, la faccio breve, ma poi ovviamente ne discutiamo, è proprio questo. No? Il Foucault degli anni 70 in qualche modo rovescia la frittata e si chiede in che misura il soggetto di cui io vi ho mostrato tutti i condizionamenti, tutte le trafile che lo hanno determinato, costruito, costituito, forgiato, ecco, che spazi di libertà può inventarsi? Allora qua bisogna stare un po' attenti. Nel percorso, nell'itinerario di Foucault, io poi rifarò a ritroso questo cammino attraverso le mie personali ricerche dedicate sostanzialmente alla storia della follia e al dispositivo manicomiale, per esemplificarvi un po' a cosa porta questo tipo di impostazione. Credo che con gli esempi si ragiona meglio. Cioè, dicevo, Foucault parte dal soggetto costituito per ritrovare uno spazio al soggetto costituente. Non intendendo il soggetto costituente alla maniera delle filosofie del soggetto, esistenzialismo, fenomenologia, come un soggetto, come direbbe Husserl, come datità. No, è comunque un soggetto costituito, però che può diventare costituente, cioè che può costruire spazi di libertà, che può inventare spazi di libertà. Ecco, credo che questo sia un po' il miracolo della parabola foucaultiana, che diventa in questo senso profondamente, io l'ho sempre sostenuto, l'ho scritto in anni in cui non si usava dire questo, che Foucault è un filosofo della libertà, proprio nella misura in cui ci rende avvertiti, no? e disincantati su quelli che sono i meccanismi di potere che ci condizionano. Allora, il Foucault degli ultimi corsi e degli ultimi libri, quello che quando scriveva e parlava sapeva già di dover morire, quindi sono anche testi che hanno una particolare, per il sottoscritto che l'ha conosciuto e frequentato, una particolare risonanza emotiva, no? È un Foucault stranamente pacato, rasserenato, privo di quelle impennate, spesso liriche, no? Che facevano anche la bellezza del suo stile, è un Foucault più... diciamo più in pace con se stesso, con la cultura e con gli autori, ne parla in maniera meno, un po' meno frenetica del solito, insomma, no? Diciamo, dicevo, rovescia la frittata, cioè cerca di mostrare come il soggetto costruisce degli spazi di libertà, attraverso quella categoria che poi Guattari ha ripreso insieme a Deleuze, ma devo dire più Guattari che Deleuze, che è la categoria della subjectivation. Della soggettivazione. Cioè io sono dentro ha dei meccanismi che mi condizionano, però all'interno di questo mio essere condizionato trovo delle strade, invento dei percorsi di soggettivazione. Ecco perché qui è importante introdurre in questa riflessione attorno al soggetto il termine polare rispetto ad esso, che non può mai essere dimenticato, no? Pena proprio una amputazione anche teorica, teoretica del discorso non solo foucaultiano ma anche di quello che noi stessi portiamo avanti oggi, che è il concetto di dispositivo. Per dispositivo si intende un insieme eterogeneo di pratiche, di saperi, di poteri, di ingiunzioni economiche, di variabili culturali, sociali, sociologiche, che più ne ha più ne metta, ecco, che mi condiziona, nel quale io opero. Dentro il dispositivo io posso costruire, nonostante i condizionamenti che pesano su di me, delle linee di soggettivazione. Deleuze ha meravigliosamente sviluppato questo tema nel testo che lui ricordava, che cos'è un dispositivo, copiato da Agamben, che ha scritto un libretto uguale, senza citarlo, vabbè, lasciamo perdere, insomma, sono queste... Ed è non so se è uscito prima, ma in italiano è uscito in quegli opuscoletti. È uscito quello di Giorgio, e 10 giorni dopo il sì. Che è esattamente quello lì. Cos'è un dispositivo? Sì. Stesso titolo, però non ci. Deve scompare. Ecco, scompare. Vabbè, insomma, siamo abituati a questa, alla scomparsa dei referenti. Non sarebbe da scrivere un bel libro, un giorno o l'altro bisognerebbe farlo. L'appuntamento delle fonti. L'appuntamento delle fonti. Ma l'hanno fatto in tanti. L'ha fatto Freud con tanti autori della psichiatria classica. L'ha fatto Jean-Paul Sartre con gli autori tedeschi che allora nessuno conosceva e lui ha introdotto a partire dall'essere nulla. Cioè, voglio dire, è una vecchia pratica un po' banditesca. No? Per cui sì, tu... ma non a distanza di così pochi no, anni. No, quello. Dispositivo maschile di uccisione del padre. Sì, è possibile leggerlo così. Nel campo della teoria femminile. Sì, ma insomma, l'ho visto fare anche da donne, comunque. Questa però è pesante, è molto pesante, anche perché individua proprio delle strategie di potere all'interno della produzione del discorso, insomma, che non sono una cosa irrilevante. Allora, credo che l'appartenenza a un dispositivo definisca anche la direzione che possono prendere i miei processi di soggettivazione. In questo senso io vorrei qui riabilitare all'interno di questa analisi, che procede quasi per paradossi, no? Io sono condizionato e condizionante al tempo stesso, no? Sono necessitato, coartato e sono anche e invento spazi di libertà, no? Sembra quasi un insieme antinomico, no? Ecco, io vorrei qui riabilitare i fasti di quella bellissima categoria che anche Giacomo ha usato nel suo ultimo saggio, quello con la copertina grigia, che adesso mi ricordo il nome lì. La passione del presente, ecco, e ne parlavamo proprio ieri, è la categoria della sintesi disgiuntiva, che è una categoria adialettica, per non dire antidialettica. Cioè non esiste solo la sintesi, come ci hanno insegnato a scuola quando eravamo piccoli, no? Che rappresenta appunto il superamento, l'aufebum, no? della tesi, antitesi, sintesi, hegelianamente. No, esiste anche una dimensione di compresenza dei contrari, no? Che non hanno bisogno di superarsi. Ecco, io credo che questa altalena tra soggetto costituito e soggetto costituente sia un buon esempio, no? Sia un buon esempio di questo funzionamento di sintesi disgiuntive. Ecco. Il problema è proprio quello, e credo che qui sia Giacomo che Ida hanno delle cose da dire su questo, sia proprio il rivendicare il diritto delle differenze ad esistere in quanto differenze, in quanto singolarità, senza essere così cannibalizzate, no? da procedimenti dialettici che le devono in qualche modo redimere in quanto singolarità e facendole assurgere a un livello di generalità, no? Credo che questo sia un tema molto importante per le nostre ricerche, insomma. Quindi la sintesi disgiuntiva è relativa proprio ai nostri rapporti con i dispositivi. Ecco, potremmo fare svariatissimi esempi. Allora io vorrei partire con qualche esemplificazione in cui mi discosterò un po' dal tracciato foucaultiano, ma per poi pur revenire au même, come dicono i francesi, per tornare allo stesso punto poi da cui ero partito, magari cercando di dire qualcosa in più. Porterò due esempi, uno relativo ai concetti e un altro relativo ai dispositivi. Fermiamoci sui concetti. Io vorrei soffermare la vostra attenzione su un concetto che ha abitato la medicina occidentale per più di 2000 anni, a partire da Ippocrate fino a oggi, fino alla clinica contemporanea, che è il concetto di malinconia, melanconia, malinconia, melancoli, melancoli in inglese, eccetera. Allora, la malinconia è una parola che risente della teoria degli umori, nasce come all'interno del dispositivo, diciamo così, ippocratico, no? Ecco, la malinconia è una patologia legata a... Sì, guardate che c'è poco da ridere sulla teoria degli umori, perché è una cosa incredibile, questa teoria degli umori, che non ha mai avuto verifiche empiriche, ha tenuto banco per più di 2000 anni, quindi è comunque un enigma che andrebbe un po' affrontato. Come ha fatto una teoria così strampalata a tenere banco per più di 2000 anni? Qual era la posta in gioco? Questa teoria permetteva di pensare, io dico subito le mie conclusioni, ho fatto un lungo percorso di ricerca su questo, permetteva di pensare la sinergia soggetto-mondo, l'appartenenza del soggetto al mondo e al cosmo. Ecco, la rottura di questo meccanismo impedisce di pensare il soggetto nel mondo e nel cosmo, perché isola il soggetto rispetto a un'analitica delle sue dimensioni, delle dimensioni che lo costituiscono, cioè la sua materialità corporea e la sua caratterizzazione spirituale, in qualche modo, no? Se volete, psicologica, diremo oggi. Ecco, la malinconia nasce quindi come un discorso di mancanza o eccesso. C'è un umore, in questo caso l'umore nero, che o fa difetto o è in eccesso. La bile nera, da qui Melaine Cole, da qui viene fuori il nome. Ippocrate diceva c'è malinconia quando c'è tristezza e paura. Già Ippocrate dava alcuni contrassegni a questa patologia di matrice umorale. Nella medicina antica questa è una cosa straordinaria, è uscito proprio da poco un bellissimo libro sugli umori e la loro storia, che vale la pena leggere. Mi ha piacevolmente sorpreso, perché mi sono occupato di ste robe e nessuno aveva mai affrontato storicamente proprio la vicenda degli umori, insomma, dell'umoralismo, così come l'ha fatto quest'autore recentemente. E, dicevo, nasce la malinconia come patologia deficitaria, come patologia che è indicativa di un certo deficit, no? Un certo deficit, una certa carenzialità. Sostanzialmente, se noi la guardiamo citiamo uno sguardo così di carattere diacronico, plurisecolare alla malinconia, troviamo che c'è un elemento che la contraddistingue, un elemento costante, permanente, che ha fatto dire ai fenomenologi, ai psichiatri fenomenologi come Tellenbach, eccetera, che i greci avevano colto l'essenza dell'uomo. Secondo me sono tutte balle queste qua, insomma, i greci non hanno colto l'essenza dell'uomo, i greci hanno avvicinato l'uomo a partire dalle loro armature categoriali, dalle loro impostazioni, solo che hanno individuato delle componenti che noi ritroviamo nella lunga durata, insomma, è tutto qui il problema, no? Ecco, allora, malinconia è malattia della perdita, sostanzialmente. Questo è un elemento comune a tutte le forme di malinconia, da Ippocrate fino ai giorni nostri. Però al tempo stesso è un disagio patologico che porta dentro di sé anche un fattore di creatività, di resistenza e di antagonismo. Ecco che rispunta fuori la sintesi disgiuntiva, no? All'interno di una categoria medica, pensate, no? Cioè la stessa patologia che è indicativa di un deficit è anche foriera, cioè porta con sé elementi di dinamismo creativo, come diceva Marsilio Ficino in un bellissimo testo, il malinconico profondissima omnium rerum petit, raggiunge la profondità di ogni cosa. Ed è vero, caspita, quanti malinconici abbiamo, avete conosciuto, no? E non parlo del depresso patologico che non parla più, che non comunica, proprio il temperamento. Gli antichi distinguevano con molta sottigliezza tra temperamento e patologia e si ponevano il problema quando un temperamento precipita e diventa patologia, distinguendo bene le due cose, ma stabilendo anche una certa continuità tra temperamento e malattia. E quante volte abbiamo visto che il malinconico è portato a uno sguardo profondo sulle cose, non superficiale, a interrogarsi sul perché delle cose. E ricordo che la prima esperienza a livello massmediale che ho fatto una trasmissione alla radio tanti anni fa, Radio 3, e c'era una casalinga la classica casalinga di Voghera, in quel caso era di Bologna, che mi ha detto, e io avevo fatto più o meno un po' di discorsi non proprio uguali a questi, ma insomma più o meno l'ambito è questo, che mi ha detto: sì, guardi, professore, io quando sono triste, quando sono malinconica, scrivo poesie, no? Ecco. E si era aperto in radio, in diretta, io non sapevo che poi c'era la discussione in diretta, sono preso un po' spiazzato, ma molto piacevole, perché è venuto proprio fuori questa dimensione contraddittoria di questa stessa malinconia, che è foriera di tristezza, che è foriera di abbattimento, ma al tempo stesso può essere foriera di creatività. Ecco, questo è un aspetto che io vi segnalo a tenere presente. Dicevo che la perdita è un orizzonte un po' che accomuna tutti i vari tipi di malinconia. Quello che varia storicamente, io qua ho avuto una vivace dialettica, ecco, con un vecchio amico che è uno dei nostri più illustri psicopatologi, che è Eugenio Borgna. Abbiamo fatto anche curato assieme un testo di Binswanger, eccetera. Lui sostiene che fa fatica, come tutti gli psichiatri, in particolare come tutti i fenomenologi, che secondo me difettano un po' di senso storico, per dirla con Nietzsche, ma i fenomenologi hanno, se tu li prendi sul lato del senso storico, sono sempre un po' difettosi, insomma, no? Non so se l'avete mai osservato, ma io questa cosa. Lui faceva fatica a cogliere la storicità del disagio e dei sintomi stessi. E io gli dicevo: guarda che qua è probabile che ci siano degli elementi comuni, delle costanti, delle K, ma poi ci sono delle variabili, no? Ecco. Allora, per esempio, a livello così di analisi dei vissuti, se è vero che la perdita accomuna tutte le forme di malinconia, quindi un sostanziale deficit, però è anche vero che l'oggetto della perdita varia a seconda dell'epoca storica. Ecco, allora, per l'uomo greco, per Bellerofonte, per dire, che è il primo grande eroe nella genealogia dei soggetti malinconici, Omero, Iliade, quando ancora non esisteva la parola malinconia, e gli autori della tarda antichità dicono: guardate che è lui il nostro capostipite, è Bellerofonte. Vagava solo per la piena di Aleion, dice Omero, no? Divorandosi il cuore, rodendosi il cuore, no? Ed evitando il passo degli uomini, passo che in greco è patonka, è la stessa radice di pons, vuol dire evitando i luoghi battuti, cioè il malinconico che si sente perso, che non riesce più a socializzare, perché ha perso il favore degli dèi, e perché gli dèi hanno abbandonato Bellerofonte, perché Bellerofonte ha avuto la ibris, ha osato dubitare della loro esistenza, e in groppa a Pegaso, il cavallo alato, è andato sull'Olimpo per vedere se gli dèi c'erano o no, ci sono i nostri dèi, e quindi è stato punito. Ha subito delle prove terribili, poi le ha superate, sono tutta una serie di racconti mitologici. Omero ci dà la parte terminale, no, di tutta questa storia, tre versi straordinari che racchiudono un po' tutta la problematica malinconica dell'Occidente, insomma, no? Vagava solo per, cioè, venne in odio agli dèi, quindi perdita del divino, perdita della trascendenza. Adesso noi ce ne facciamo un baffo di perdere la trascendenza, probabilmente, non sempre però, non sempre, nel senso che anche la perdita del divino può generare disagio in certi soggetti. Personalmente mi ritengo estraneo a questa cosa, non ho mai avuto questa trascendenza, me l'hanno inculcata quando ero molto piccolo, poi non ci ho mai creduto a partire da 10-11 anni, e quindi non ho sentito questa perdita della trascendenza. Però molti soggetti più educati di me, da questo punto di vista, giurano che vivere con l'idea che Dio non esista, che Dio non ti abita, è una cosa che dà angoscia. Nell'uomo greco sicuramente era così, cioè la perdita del divino come elemento immanente alla condizione umana era considerata fonte di angoscia. Ovviamente questo tema vi sta a indicare come esiste una relatività, una storicità del disagio malinconico, no? Un altro esempio, non so, una grande opera della nostra modernità, Croce e Delizia dei filologi, che io adoro, insomma, dell'oxoniense Robert Burton, 1621, Anatomy of Melancholy, ecco, grandissima opera, no? Dove lui dice, a parte che è un'opera per certi aspetti anche divertente, a proposito del discorso di prima, lui è Burton che dice che gli autori sono tutti ladri, sì. rubano dappertutto, rubano a mansalva e la fanno sempre franca. Ecco, poi Burton fa due annotazioni sulla malinconia che a me hanno lasciato di stucco quando l'ho letta per la prima volta. Lui dice: se Keplero, Copernico e compagnia cantante hanno ragione, noi abbiamo ancora più ragione di sentirci malinconici in questo labirinto sublunare. Allora qui c'è un altro tipo di perdita che entra in ballo, no? La perdita del centro. Cioè non abbiamo più la sensazione di essere al centro dell'universo. Questa cosa che ha sconvolto, no? Ha sconvolto dal punto di vista proprio filosofico e anche antropologico la nostra modernità, gli albori della nostra modernità. La coscienza colta ha reagito nelle maniere più incredibili. Guardate che la scoperta dell'infinito, la scoperta dell'infinito è stata una scoperta che ha portato con sé anche angoscia, insomma. C'è qualcuno che qui, non poco distante da qui, è finito arrostito, insomma, no? Nel 1600 per aver tematizzato la pluralità dei mondi, no? Si chiamava Giordano Bruno, insomma, no? Ecco, allora non è, la posta in gioco non era da poco, non era e non è tuttora da poco, insomma. Noi l'infinito fa paura, il vuoto fa paura. Keplero, che nei banchi di scuola te lo insegnano come inventore dell'astronomia, è anche un autore di fantascienza, un autore molto immaginifico, che scrive in un testo straordinario, dice: noi di fronte all'idea del vuoto e dell'infinito siamo presi da un non so quale segreto orrore. Quindi questa fobia del vuoto e questa paura dell'infinito, no? Del non finito. Ecco, allora credo che questa cosa che dice Burton, che la rivoluzione astronomica praticamente ci mette in gioco, ci perturba, perché ci toglie questa sensazione di appartenere a un cosmo ordinato nel quale noi occupiamo una posizione centrale. Ecco, questa è un'altra clamorosa perdita che scandisce l'emergere di un disagio malinconico in quell'epoca, in quel momento preciso. Io sono attento a questa specificazione spazio-temporale del disagio, no? Contrariamente al pastore dell'essere con la croce uncinata sul petto, sapete a chi mi riferisco. Ecco, penso che l'esserci sia più importante dell'essere e che la condizione umana, così come la cura, il famoso tema della sorge, sia storicamente, come si diceva una volta, si usava a dire ai bei tempi, oso dire questa cosa, un po' retro, si usava a dire storicamente determinata, no? Storicamente determinata. Allora, c'è qualcuno che ha ripreso in mano questo discorso delle perdite, è Sigmund Freud, che in uno scritto del 1916 dice, più o meno così, dice: ci sono state delle grandi rivoluzioni che hanno sconvolto l'uomo, una è appunto è quella di Keplero, Copernico, eccetera, l'altra è quella di Darwin e la terza è la mia. Ecco. Era modesto l'uomo, no? Era consapevole della sua grandezza e diceva appunto: io sono un portatore di turbamento anche per questo, insomma, no? Perché mostro la dimensione effimera della nostra esistenza, ecco, e qua abbiamo in ballo una perdita, come dice in questo testo Freud: l'io non è più padrone in casa propria, no? Non è più padrone in casa propria. In Darwin l'uomo non è più la creatura eccellente sopra tutte le altre, ma ha una discendenza animale, ecco, e il nostro mondo non è al centro dell'universo. Esistono una pluralità di mondi, il povero Giordano Bruno per aver affermato la pluralità e l'infinità di mondi, è finito arso vivo. Allora, per dire, queste sono dimensioni che la malinconia assume nel tempo, no? Questo orizzonte della perdita è davvero uno degli aspetti essenziali del turbamento malinconico, no? Che varia appunto nello spazio e nel tempo. Dicevo prima l'aspetto creativo della malinconia, no? Il fatto che la malinconia in qualche modo, per capirla, dobbiamo applicare un po' questa categoria che proponevo prima, che a noi è molto cara, no? Della sintesi disgiuntiva. La malinconia tiene dentro di sé la coazione, no? La necessità, il condizionamento e la libertà. Il malinconico, proprio perché malinconico, ha la libertà di capire certe cose, di andare fin in fondo a certe cose, no? E di guardare l'animo umano, il cuore umano, la condizione umana con uno sguardo profondissimo, omnium rerum petit, bellissima questa espressione di Ficino, no? Coglie la profondità di tutte le cose, no? Però al tempo stesso, in quanto malinconico, per magari alcune cose che attorno alle quali la gente normalmente soffre, ma insomma riesce a, con le quali riesce a convivere, magari lui sprofonda invece nel disagio, nella malattia vera e propria, insomma, a questo passaggio dal temperamento alla malattia. Ecco, però se guardiamo la malinconia ci presenta, nella sua storia, ci presenta questi due aspetti contemporaneamente. E se guardiamo alla realtà clinica, ieri e oggi, questi due aspetti, non soltanto nella malinconia, ma anche per esempio nella psicosi, anche nella schizofrenia, io rimprovero un po' a Deleuze e a Guattari di aver idealizzato la figura dello schizofrenico. Schizofrenico, oltre ad essere creativo, è anche una persona estremamente sofferente, l'abbiamo detto anche stamattina. Però, n'empêche, come dicono i francesi, che questo non toglie che ci sia una dimensione creativa anche nella schizofrenia, no? Esiste un'arte degli schizofrenici, esiste, non so, una grande poesia, tra virgolette, schizofrenica. Antonin Artaud, del quale io mi sto occupando, ci sono 3.000 pagine di diario che lui ha scritto quando era internato in manicomio, mai pubblicate finora in Italia, in cui lui disfa e rifà il mondo, è 3.000 pagine di deliri creativi. Diciamo che forse questo è uno degli esempi più folgoranti, no? di una schizofrenia creativa. Van Gogh, ecco, per citare un altro esempio, e potremmo andare avanti, no? di questo passo. Quindi la patologia mentale, per essere compresa, ha bisogno di una, come dire, di un approccio che si serve di questo tipo di categoria che dicevo prima, possiamo anche chiamarla diversamente, insomma, sintesi disgiuntiva, mi pare che dia un po' l'idea che volevo suggerire. Lo stesso manicomio, storicamente, no? Credo che da questo punto di vista, più che la storia della follia, di Foucault andrebbe letto il libro Il potere psichiatrico, che è uscito da Feltrinelli nel 2004, che è un suo corso dei primi anni 70. Lo stesso manicomio, in fondo, deve essere capito, e lì Foucault stenta un po' a capirlo da questo punto di vista. Ci arriva, ma con molte contraddizioni. Io sono andato avanti lungo questa strada. Il manicomio, secondo me, è la dimostrazione evidente di una sintesi disgiuntiva in atto che sta dentro proprio una struttura stessa del dispositivo. Nel manicomio funzionano congiuntamente tre modalità del potere, che sono poi le modalità del potere che Foucault ci ha indicato anche così, diacronicamente, una dopo l'altra. Il potere di sovranità, il vecchio potere coercitivo dell'ancien régime, il potere disciplinare e il potere persuasivo. Ecco, sarebbe sbagliato vedere cronologicamente queste tre forme di potere, perché molto spesso nella nostra vita quotidiana, nelle nostre istituzioni, nei nostri ospedali, nelle nostre carceri, nei nostri manicomi, anche nei nostri carceri, nei nostri manicomi privati, intendo le famiglie, queste dimensioni convivono. C'è del dispotismo nel rapporto genitori-figli? Non mi dite che non c'è del dispotismo? Spesso è mascherato, no? Così è occultato, adesso non si osa più magari prendere a sberloni un bambino o si ha paura di dirgli di no, però insomma come dire, il penchant dispotico in un genitore non può non esistere, anche per una questione di sopravvivenza, perché questi piccoli mostri ti rendono la vita impossibile, no? Quindi hai bisogno ogni tanto di irrigidirti, di dire dei no secchi e di usare il potere dispotico. Poi contemporaneamente c'è la disciplina, lo mandi a scuola, lo mandi in palestra, no? Ecco la disciplina. Ecco. E poi c'è la persuasione, e c'è quindi la modalità affettiva, la modalità del convincimento, la modalità del dialogo. Tutte queste cose convivono assieme all'interno di uno stesso dispositivo. Potremmo citare la scuola, potremmo citare la famiglia, possiamo anche citare, l'ho detto stamattina da Giacomo in università, possiamo anche citare il manicomio. Forse su questo c'è ancora molto da discutere, c'è molta ricerca empirica da fare. Io posso garantirvi che in tutti i testi che ho letto dell'alienistica ottocentesca, e li ho veramente attraversati da cima a fondo, non esiste uno dei grandi autori, citate neppure a caso, non so, da Schirola, Pinella, Falre, a Grisinger, eccetera, anche i più accaniti manicomialisti, tra questi medici, che non parlino di trattamento morale, che non parlino di persuasione, che non parlino di vicinanza rispetto al malato, che non parlino di tutto un aspetto della cura che non è propriamente dispotico, che non è appunto potere di sovranità, è potere disciplinare o addirittura potere persuasivo. Ecco, questo a dimostrazione che il manicomio stesso, io l'ho definito un grande ossimoro. Nel manicomio convivono, coabitano strumenti di contenzione, strumenti di coercizione, terribili, e strategie dolci. Io ho appena, da poco, insomma, da un paio d'anni, ho messo in piedi un museo, che se andate a Venezia vi invito ad andare a vedere, perché è veramente carino, anche se ci sono degli orrori dentro, ma è fatto bene, cioè, in qualche modo, scusatemi la battutaccia, è divertente, ecco, nel senso che abbiamo fatto un museo della follia all'isola di San Servolo, che era la sede del vecchio manicomio veneziano della regione Veneto, e abbiamo esposto all'interno di questo museo, e lì avete proprio la sintesi disgiuntiva per capire, avete una sala con gli attrezzi di contenzione, catene eccetera, pochi metri avanti avete un grande pianoforte comprato nel 1874 dalla direzione del manicomio per fare i primi esperimenti di musicoterapia con gli alienati. Capite? Allora, voglio dire, quando anche il luogo comune di una certa sinistra e anche di un certo basaglismo, che francamente per me è detestabile, perché voglio dire, capisco che per delle ragioni di battaglia politica tu mi voglia dire il manicomio è stato solo un lager, ma non è vero. Il manicomio non è stato solo un lager, è stato anche un lager. E quando è nato con finalità terapeutiche. Se voi parlate con i vecchi infermieri che hanno fatto l'esperienza manicomiale, vi sommergono con racconti da strappalacrime, da lacrime agli occhi, insomma, sul tipo di rapporto che all'interno di queste istituzioni terribili, atroci, perché sono convinto che Basaglia avesse ragione a volerle smantellare, ci mancherebbe altro. Però c'erano delle dimensioni della relazione che alludevano a un altro tipo, quantomeno a un'altra modalità del potere, che non era quella dispotica, non era quella di sovranità, che era quella disciplinare o addirittura quella persuasiva, quella dialogica. Ecco. Una frase che io citavo oggi, Esquirol, uno dei padri fondatori della psichiatria moderna, scrive nel 1805, all'interno di un testo che è la sua tesi di dottorato dedicato alle passioni, lo stesso testo su cui hanno lavorato Marcel Gauchet e Gladys Swain, che citavo stamattina, scrive che bisogna, il faut se mettre en harmonie, bisogna mettersi in armonia, questa è l'espressione che lui usa, con le idee madri che presiedono alle produzioni deliranti dei pazienti, le idées mères, le idee che producono, no? Le idee produttrici del delirio, in qualche modo. Se mettere in armonia, capite che è un concetto estremamente sofisticato che implica il fatto che tu ti metti sullo stesso piano, ti metti sulla medesima longueur d'onde del paziente, sulla stessa lunghezza d'onda. Ed è un concetto che uno mi dice, ma come? Siamo all'interno di un dispositivo, siamo all'interno di un posto, se voi andate a vedere il mio museino lì a Venezia, lo vedete, in cui ci sono le catene, ci sono gli elettroshock, c'è un po' di tutto, però c'è anche il pianoforte. Ecco, voglio dire, c'è questa pluralità, questa plurivocità, se volete, no? della strumentazione repressiva e della strumentazione di potere. Credo che quindi occorra, quando io spiego questa cosa agli studenti, all'interno di una posizione mia personale politica di totale condanna io poi ho lavorato, l'ho spiegato anche stamattina agli studenti, ho lavorato attivamente nei dipartimenti di salute mentale come consulente epistemologo, battendomi contro ogni forma di contenzione in maniera radicale e senza se e senza ma, come si usa dire oggi, non ci piove su questo. Però il problema è che bisogna capire, per farlo capire ai miei studenti, faccio spesso l'esempio anche dell'attività dell'educatore a scuola o dei genitori in casa, bisogna capire che le dimensioni apparentemente contrastanti del potere convivono, spesso convivono e hanno bisogno di convivere, la dimensione dispotico, repressiva da un lato e la dimensione persuasiva dall'altro. O se volete, andiamo ancora più a fondo del problema, qua uno spunto che potrebbe essere oggetto di discussione, ovviamente, soprattutto con i miei interlocutori che alla mia sinistra, i miei temibili interlocutori, ecco, e la stessa ambivalenza, no? Il concetto di ambivalenza, quello di cui Freud e poi Ferenc dicono che sarebbe ora di liberarsi da questa maledizione dell'ambivalenza, cioè la compresenza di amore e odio, anche qui occorre un'ottica orientata alla comprensione delle sintesi disgiuntive per capire come diavolo è possibile, perché non è vero che la compresenza di amore e odio determina sempre patologia mentale, vedi la scuola di Palo Alto, è vero a certi livelli, ma se no saremmo tutti matti, saremmo tutti, perché noi siamo cresciuti dentro questa ambivalenza e l'abbiamo vissuta, no? L'abbiamo vissuta e la viviamo probabilmente anche in tantissime altre dimensioni, una volta come figli, poi come genitori, credo che ognuno di noi possa fare un po' di autoanalisi, di spicciola e convenire o dissentire, ma insomma quantomeno entrare in cortocircuito con questo tipo di problematica. Quindi il dispositivo manicomiale come Giano Bifronte, come ambigua coesistenza di dimensioni differenti del potere. Credo che su questo varrebbe la pena di riflettere a lungo. Dicevo prima, potere di sovranità, potere di disciplina, potere disciplinare e potere di persuasione. L'ultimo, in particolare, che è la forma più... Foucault ha studiato tutte queste forme di potere, insomma, anche se non le ha sistematizzate, è quella più subdola, che è stata scoperta già nell'Ottocento da una delle grandi, delle grandi menti politiche dell'Europa del primo Ottocento, che era fondatore, non cito un comunista, quindi anche i Berlusconi che sono qui presenti possono stare tranquilli, cito il padre del pensiero liberale. Sarà difficile trovarlo. Lo so bene, l'ha detta come battuta. No, ci mancherebbe altro, la Fondazione Basso, insomma, sarebbe un po', no? Forse... Ma magari abbiamo... Avere interesse è il benvenuto, se ha un interesse... Ragazzi, ascolti, interesse ad ascoltare, il benvenuto, anche un Berlusconi. Magari può essere un infiltrato. Scusate, adesso ho perso il filo, cosa stavo dicendo? Sì, la più subdola. Io vi inviterei a dare un'occhiata agli scritti che Tocqueville e Beaumont hanno redatto insieme in occasione del loro viaggio in America. Hanno fatto un viaggio commissionato dal Ministero degli Interni dove hanno visitato le prigioni americane. Les écrits pénitentiaires si chiamano. No? Sono due volumi usciti nell'opera Omnia di Gallimard, li trovate quindi abbastanza facilmente, non tradotti in italiano, in cui Tocqueville mette in evidenza questo, dice il paese che a livello di libertà civili è il più avanzato al mondo, cioè gli Stati Uniti d'America, quando si tratta di difendere la propria sicurezza, quando c'è in ballo il problema della sicurezza, utilizza i meccanismi dispotici del potere d'ancien regime, il dispotismo d'ancien regime. Quindi il dispotismo dell'ancien regime dentro le nuove forme della democrazia. È un qualche cosa che anche il giovane Marx aveva ben messo in evidenza, no? quando parlava della Camera Alta e della Camera Bassa, insomma, no? Nelle opere politiche, certo Brumaio, l'otto di classe in Francia, eccetera, insomma, il vizio nascosto, diceva Marx, no? Della democrazia, è il dispotismo come vizio nascosto della democrazia. E anche qui questi grandi pensatori, Tocqueville da un lato, Marx dall'altro, vedono la compresenza di dimensioni apparentemente antagoniste. Questo è molto interessante per noi. Cioè il potere democratico come potere persuasivo per eccellenza, però in determinati frangenti se utilizza meccanismi dispotici, meccanismi coercitivi. Ecco, credo che andando avanti su questo piano la nostra analisi dovrebbe per forza di cose investire un terreno che oggi è quanto mai all'ordine del giorno, insomma, no? Si fa un gran parlare dell'incontro tra culture diverse, del cosiddetto problema dell'integrazione, eccetera, eccetera, no? Credo che dovremmo affrontare questa problematica spinosa proprio rivalorizzando questo concetto della sintesi disgiuntiva. Guardate, io credo che una fonte molto interessante per fare queste operazioni possa essere la storia dell'arte. Io sto lavorando recentemente, lo dicevo ieri a Giacomo, su Magritte, e vi faccio vedere, questa è la versione c'è a Bruxelles, ce n'è una a Venezia, la Guggenheim è ancora più bella. L'impero delle luci, l'Empire de Lumière, se volete farla passare. E apparentemente sembra un quadro semplicemente molto bello, quasi una cartolina, esteticamente piacevole, però con dentro un paradosso, con dentro qualcosa di molto provocatorio. Cioè un cielo pieno di nuvole, chiaro, pieno giorno, e sotto un paesaggio notturno. Quindi questa compresenza di luce e ombra e tenebre. Ecco una sintesi disgiuntiva in atto. Diciamo che Magritte era ossessionato un po' dall'idea di mettere assieme, ma non soltanto il giorno e la notte, la dimensione umana e la dimensione animale, per esempio. Certo. Ecco, ci sono tanti quadri di Magritte che vanno in questo senso. C'è un quadro famoso in cui c'è un soggetto strano che è per metà pesce e per metà donna, insomma, no? E così via, insomma. Allora l'arte ci familiarizza, no? Proprio con questi connubi paradossali, con queste vicinanze paradossali, no? Notte, giorno, uomo, animale, e via discorrendo. Credo che il gioco della luce e dell'ombra, che io ho scelto per esemplificare questo procedimento comprensibile attraverso la categoria della sintesi disgiuntiva, sia qualcosa che ha una lunga tradizione, una lunga storia anche nella nostra cultura occidentale. Insomma, troviamo tracce di questo, tracce consistenti nei testi veterotestamentari, la luce e la tenebra. In particolare nel libro di Isaia, cioè in quello di Giobbe, guardatevi i straordinari commenti che ancora a distanza di tempo, secondo me, reggono di quel pazzo scatenato e geniale e creativo che è Guido Ceronetti, un grande personaggio. Ha fatto una bellissima traduzione, lui da Delfi, di alcuni libri, ha tradotto Giobbe, l'Isaia e il Cantico dei Cantici, no? E lì lui insiste molto su questo gioco della luce tenebra, no? L'accostamento luce tenebra all'interno del registro tragico veterotestamentario, ma anche della tradizione mistica occidentale, insomma, no? Il discorso della luce nera, o addirittura nella metafora del sole nero, nella malinconia, insomma, ecco, potremmo discettare a lungo su questo per vedere come le arti figurative spesso vanno un po' più in là, no? Dei vari campi discorsivi ai quali noi siamo abituati, insomma, no? Ecco. Soprattutto nel mettere assieme dimensioni che la nostra ratio ossessionata da una sorta di indomabile furore tassonomico, no? Fa fatica a mettere a fuoco, no? Fatica a mettere a fuoco. Come siamo messi coi tempi? Ma guarda, hai ancora, se vuoi, una decina di minuti, ma insomma, ma puoi anche invece non averli, puoi terminare anche subito. No, io forse io preferirei, visto che siamo pochi ma buoni, a parte qualche Berlusconi infiltrato, ma non ci scomponiamo, se volete facciamo un giro di opinioni, e ovviamente a partire dai miei vicini di banco, dei miei compagni di banco, e magari così discutiamo un po' insieme. Va bene, io intanto darei, dopo aver ringraziato intanto Mario di questo suo contributo, mi limito soltanto a dire una cosa prima di passare la parola a Ida intanto, poi magari mi riservo di dire qualcos'altro dopo, soltanto i punti che mi sono sembrati, per favorire anche la discussione eventualmente, i punti che mi sono sembrati importanti e decisivi, in qualche modo topici, no? Gli aspetti, i momenti topici del tuo contributo. Intanto questa idea di libertà che tu hai tirato fuori attraverso un asse che hai stabilito, che poi un asse effettivo, non è un asse che tu hai inventato, ma un asse vero, reale, tra l'approccio di Lévi-Strauss e l'approccio di Foucault, no? È noto che Foucault è stato recepito inizialmente come strutturalista, ovviamente questa è una denominazione molto generica, però sicuramente da Lévi-Strauss Foucault mutua l'idea della libertà come consapevolezza, presa di coscienza degli a priori, quindi della struttura culturale, no? Della barriera di contatto culturale con la quale noi ci relazioniamo alla realtà, che insieme appunto sintesi disgiuntiva e a un tempo contatto con reale ma anche barriera, no? Queste forme, no? Questa, ecco. E quindi il soggetto costituente che dovrebbe essere prototipo della libertà non è affatto un punto d'inizio, ma è un punto di arrivo. Noi abbiamo sempre a che fare con soggetti costituiti, che sono costituiti dalle forme di vita culturali, ma anche dalle forme di potere. E la sintesi disgiuntiva non richiede alcuna soluzione dialettica, gli opposti generano processi vitali indipendentemente da una loro conciliazione, quindi è un campo di tensione che non richiede di essere conciliato. La parte sulla melanconia è una parte che mi è molto cara, perché la melanconia è non soltanto un motivo conduttore del pensiero occidentale, ma è anche la categoria chiave della genesi della modernità. Tu hai citato molto opportunamente Barthol, no? E si potrebbe dire che all'anatomia della melancolia di Barthol fa riscontro l'anatomia del mondo, l'anatomia of the world, no? Certo. Di John Donne, certo. No? Che parte esattamente dallo stesso tipo di presa d'atto, cioè con la scoperta che siamo immersi dentro uno spazio infinito, non abbiamo più centro e quindi le antiche certezze sono cadute. Quindi la modernità coincide esattamente con questa sindrome melanconica, preceduta poi, per andare all'arte, dalla serie delle melanconie di Dürer, grandissime, che ogni opera di Dürer equivale già a una ventina di trattati di filosofia, già dal punto di vista della capacità espressiva. E poi hai finito con questa tripartizione del potere in potere di sovranità, potere disciplinare, potere persuasivo, e in qualche modo hai poi detto che bisogna in qualche modo applicare sia questa tripartizione, sia anche, quindi, la compresenza di questi tre poteri, sia applicare la sintesi disgiuntiva riguardo alle istituzioni, per esempio come gli ospedali psichiatrici, che non sono stati unicamente dei luoghi di, come dire, di coercizione, ma anche dei luoghi in cui si elaboravano delle forme relazionali nuove, anche forme relazionali in cui tra il medico e il paziente si istituiva una relazione non soltanto verticale. E diciamo questo, poi una domanda ce l'avrei per dopo, io ho sempre avuto l'idea che per Foucault, però, per ritornare a Foucault, non, dal potere non ci si libera. Cioè tu l'hai un po' curvato in chiave liberatoria, ma la mia sensazione leggendo i testi foucaultiani, anche i corsi di Foucault, è che dal potere non ci liberiamo mai. Cioè non possiamo, possiamo elaborare forme di resistenza, elaborare forme di spazi, come tu hai detto, spazi di libertà, ma dal potere una liberazione, pur essendo il potere un fatto storico-culturale e non naturale, il potere non ha radice nella natura umana, è un evento culturale che è diffuso in tutte le culture, evento culturale universale ma pur sempre culturale, tuttavia Foucault mi pare non contemplare mai la prospettiva di una effettiva liberazione dal potere. Mi potrò sbagliare, tu lo conosci molto più dal di dentro di quanto non lo conosca io, però questa è una domanda che volevo porti. La parola a Ida Domignani. Sì, non è molto lontana da quella che ti porrò io. Non prima di aver detto che anch'io sono contenta di parlare con Mario, perché io lo seguo fin dai tempi della bellissima collana di Il corpo e l'anima. Sì, di Marsilio, insomma, sì. Quella degli anni Ottanta, che ha dato tanti bei testi, veramente. Sì. Insomma, uno è già stato citato, è il testo di Eschirol sulle passioni, ma insomma anche altri, quello sul panottico, quello sulle storie, quello di Fontana sulle storie di isteria, insomma quella secondo me è stata una di quelle felici esperienze editoriali di quando l'editoria riusciva a segnare proprio dei passaggi culturali, no? Formativi, insomma, io la ricordo così. E poi più di recente ci siamo sentiti con Mario un po' su Foucault, proprio sulla questione di interpretazione foucaultiana. Lui ha da poco dato un libro su questo, un libro importante che ha dei saggi importanti, insomma, di interpretazioni, sull'interpretazione di Foucault oggi. Allora, io vorrei riprendere un po' la prima parte del suo intervento nella chiave appunto di una della problematizzazione dell'eredità foucaultiana, premettendo che invece sono completamente d'accordo sull'altro côté della sua relazione, cioè quello che riguarda più in generale la questione delle sintesi disgiuntive, così come lui l'ha posta, insomma. E d'altra parte, essendoci qui Giacomo, che ha già usato questo tema anche nell'analisi del presente, credo che sarebbe facile anche estendere, diciamo, il discorso di Alsigna a questioni di teoria politica contemporanea, di comprensione per esempio della globalizzazione e più in generale, diciamo, della configurazione del presente, della configurazione spesso paradossale e ossimorica del presente e delle contraddizioni del presente, nessuna delle quali in verità sembra più risolubile in base a una logica hegeliana di superamento, no? Noi ci troviamo di fronte per l'appunto a contraddizioni che non consentono la sintesi e il superamento. Però di questo semmai possiamo riragionare dopo. Io approfitterei della presenza qui di Mario per porgli invece una questione che appunto riguarda l'interpretazione, l'eredità di Foucault, non tanto l'interpretazione di Foucault, ma l'eredità di Foucault. L'eredità di Foucault è questione sulla quale si potrebbero scrivere interi volumi, perché mi pare che Foucault non smetta di incombere proprio, no, sulle sul nostro presente culturale. Cesare Luporini diceva sempre che Marx non smetteva di incombere, a dispetto di chi lo dava periodicamente per morto, e aveva perfettamente ragione. Poi l'ha detto anche Derrida, insomma, questa cosa dell'incombenza di Marx, dello spettro di Marx, eccetera. Con Foucault sta succedendo un po', altra questione è decidere se questa sorte sia meritata o non meritata, ma sta succedendo un po' la stessa cosa. Allora, io sono molto d'accordo, sono anche molto contenta che tu l'abbia fatto, nel leggere Foucault come un filosofo della libertà oltre che del potere, o meglio, come un filosofo, uno dei pochi in verità, uno dei pochi nel secondo Novecento, che si pone assieme il problema del potere e della libertà. Ecco, dopo è finita questa cosa, abbiamo avuto cattive filosofie del potere in cui la questione della libertà era assente, o cattive filosofie della libertà in cui era assente la questione del potere. E io ritengo che questo sia uno dei nodi, anzi, di filosofia politica da sciogliere, insomma, per quello che riguarda soprattutto la filosofia politica democratica, più ispirata naturalmente dall'opera di John Rawls e da quello che ne è venuto. Comunque, Foucault è ancora un filosofo che si pone, diciamo, in cui il tormento del potere, l'assillo del potere va insieme al tormento della libertà. Dopodiché, io penso, come Giacomo, che lui non esca però dalla gabbia del potere, e quindi direi che in lui la libertà resta sempre un'istanza, no? Un richiamo, una pulsione, perfino un movente, direi, una molla, Cioè non si può leggere niente di Foucault senza tenere presente che in lui anche il pensiero del potere è spinto dalla molla della libertà. Però io non credo che in Foucault alla fine esista, sia rintracciabile una teoria della libertà di coerenza pari all'analitica del potere. Cioè, quindi, in sostanza, penso che appunto la sua analitica del potere non è comprensibile senza tenere conto della molla di libertà che la ispira, della domanda di libertà che la ispira, e quindi lui è un pensatore in cui il combinato potere e libertà è molto presente. Tuttavia io non credo che lui riesca ad essere un filosofo della libertà, a pensare davvero la libertà, che naturalmente è un altro modo per dire che il passaggio dal soggetto costituito al soggetto costituente, come tu l'hai chiamato, secondo me è un passaggio incompiuto in Foucault. Ovviamente io che l'avevo anch'io salutato, mi ricordo, insomma, quando uscì il primo volume della storia della sessualità, dopo una lunga fase di latenza e di pausa dei lavori di Foucault, del lavoro foucaultiano, come fu discussa e salutata quell'opera. E nel mio piccolo, io ero molto giovane allora, insomma, la difesi moltissimo come appunto il chiaro emergere in lui di un approfondimento della pulsione della libertà che dicevo prima, no? E certamente tutto il Foucault degli anni Ottanta si può intendere, va inteso nel modo in cui tu hai detto, cioè come un tentativo appunto di mettere a fuoco il soggetto costituente e non più solo il soggetto costituito, i processi di soggettivazione, non più solo quelli di assoggettamento, eccetera, eccetera. È chiaro che la morte è intervenuta a interrompere questo percorso, che quindi è un percorso incompiuto, in primo luogo per una ragione di una causa di forza maggiore. Però io vorrei qui sottoporti una cosa che mi frulla per la testa da parecchio tempo, e e che io vorrei porgerti anche a partire dalla mia frequentazione di un'autrice foucaultiana che tu citi molto nell'introduzione al volume su Foucault, e cioè della mia amica Judith, che insomma secondo me, diciamo, estremizza, porta alle estreme conseguenze il dono di Foucault, l'eredità di Foucault, ma non fa che estremizzarne anche i limiti. Io mi sono convinta, dopo averla letta, riletta e tornata a leggere con molta attenzione, che lei eredita, diciamo, appunto, si fa erede della perspicacia analitica foucaultiana, ma purtroppo eredita poi anche i limiti di quel percorso. Adesso cercherò di dire perché. Esiste uno scritto di Foucault, una nota, credo, io adesso non riesco a ricordarmi la citazione, in cui lui dice che nel libro successivo che avrebbe scritto, che poi non ha più scritto perché è morto, avrebbe voluto fare i conti con Freud, con la psicoanalisi, e annuncia anche dei conti sorprendenti rispetto a quello che lui aveva detto fino ad allora della psicoanalisi stessa, con la quale, come è noto, Foucault aveva pessimi rapporti, apparentemente, secondo me, adesso dirò perché apparentemente. Comunque, apparentemente, e non solo apparentemente, sostanzialmente, diciamo, Foucault vede nella psicoanalisi un esempio appunto del potere persuasivo. Sostanzialmente la psicoanalisi è un esempio di potere persuasivo. Nonché, insomma, poi lui gli addebita anche a Freud una serie di altre colpe che adesso non sto a dire. Io poi resto convinta che comunque, diciamo, Foucault appartiene a quegli studiosi antipsicoanalisi che tuttavia respiravano un clima in cui la psicoanalisi c'era, cioè la cultura francese del secondo Novecento, e che quindi comunque è un essere antipsicoanalitico che non ha niente a che fare con la totale rimozione e cancellazione della psicoanalisi che invece, per esempio, vige nel contesto filosofico italiano. Quindi è comunque un essere contro, come in Deleuze, che è comunque però anche un essere dentro. Però, diciamo, la sua posizione notoriamente è una posizione di contestazione della psicoanalisi. Ora, secondo me, questo non aver fatto i conti con Freud di Foucault, che secondo me non fa i conti con Freud, prendendo quella posizione, non li fa neanche, si possono fare i conti ovviamente anche contestando un autore, ma secondo me la sua contestazione di Freud non equivale a un confronto vero con Freud, si riflette nell'eredità, si riflette prima nella mancanza di una teoria della libertà in Freud, in Foucault, e poi si riflette moltissimo nell'eredità foucaultiana. Allora, il famoso soggetto costituente non riesce mai ad emergere, diciamo, almeno non con la forza con cui emerge nel primo Foucault il soggetto costituito, perché è come se non si riuscisse mai a capire dov'è il punto di leva per uscire dalla gabbia del potere. Io lo so che naturalmente mi si può rispondere, potrei farlo anch'io, di rispondermi che invece Foucault individua una serie di percorsi, di pratiche parodiche, di resistenze, e soprattutto nel Foucault degli anni Ottanta, di pratiche etiche per fuoriuscire dal potere. Però alla fine non si esce dalla gabbia del potere, e non si esce proprio perché, per quanto cerchi di ribaltarsi in soggetto costituente, il soggetto resta fortemente costituito dalla traccia del potere. È tutto tracciabile, questo soggetto, cioè non c'è nessuna eccedenza rispetto a questa costituzione del potere all'interno della gabbia del potere. Naturalmente la libertà invece è eccesso. La libertà è un'eccedenza irriducibile, e quindi se non c'è eccedenza dall'essere prodotto dal potere non c'è neanche libertà, e qui secondo me c'è un po' il limite della teoria foucaultiana, che è riportabile anche alla mancanza, al non avere fatto i conti con Freud, perché in Foucault, e tu lo sai meglio di me, non esiste la nozione di inconscio, cioè la questione dell'inconscio non compare mai come questione credibile nell'opera di Foucault. Compare la storicizzazione della patologia, compare questa analitica proprio della patologia mentale in riferimento ai dispositivi del potere, ai dispositivi disciplinari, all'anatomopolitica, che secondo me resta in Foucault un campo oggi troppo negletto rispetto a quello troppo praticato della biopolitica. Io continuo a pensare che l'anatomopolitica, cioè lo studio dei meccanismi di disciplinamento, sia il grande lascito di Foucault. Però l'inconscio non c'è. Che cosa succede allora nei suoi eredi, in cui invece in teoria l'inconscio c'è? Vediamo Judith Butler, per esempio, nella quale in teoria invece l'inconscio c'è. Butler sa che c'è, Butler è una che pratica la psicoanalisi, si confronta con la psicoanalisi, eccetera. Beh, lì succede una cosa, secondo me, interessante ma strana, che costituisce il limite anche della filosofia di Butler e appunto è il punto in cui io vedo che l'eredità foucaultiana la incastra. Succede che la nozione di inconscio perde esattamente tutte le caratteristiche di creatività che tu adesso, Mario, giustamente ci facevi vedere sul caso della malinconia, no? Ma noi sappiamo che, per esempio, a proposito di sintesi disgiuntive, l'inconscio è il funzionamento dell'inconscio è un grandissimo esempio di sintesi disgiuntive. L'inconscio è insieme appunto deposito di costrizione, deposito di repressione, deposito di traumi, ma è anche una grande fonte di un eccesso di libertà e di imprevedibilità. E quindi, secondo me, fare i conti con Freud e con la nozione freudiana di inconscio e con il modo in cui Lacan poi ha sviluppato la nozione di inconscio, cioè nei suoi elementi creativi, diciamo, appunto di eccedenza rispetto alla ragione, e di eccedenza però anche rispetto al potere organizzato, alla forma del potere, alla struttura del potere, alla gabbia del potere, avrebbe aiutato Foucault a procedere nella sua teoria del soggetto costituente e aiuterebbe anche i suoi eredi a venire a capo di questa questione della libertà, dalla quale invece, secondo me, non si viene granché a capo. Nella Butler questo è un problema evidentissimo, cioè noi gliel'abbiamo anche posto, lei è stata nostra ospite all'università 2 anni fa, insomma le abbiamo posto questo problema, no? Di una ontologia del soggetto che non può prescindere anche da una teoria della libertà o da un pensiero della libertà, e le abbiamo anche detto che lei resta troppo ingabbiata nel potere. Ora secondo me lei sta anche lavorando un po' su questa questione, però resta un po' al di qua della bisogna, perché anche in lei, anche poi da americana, lei eredita invece usa una nozione di inconscio che l'elemento della libertà e dell'eccesso creativo non lo contempla. Allora l'inconscio è solo deposito traumatico, è solo qualcosa da cui bisogna, il deposito di qualcosa da cui bisogna guarire, appunto la repressione, la norma, l'eterosessualità obbligatoria, la norma, sostanzialmente l'interiorizzazione della norma, la trasmissione della norma, eccetera, eccetera, non è mai istanza appunto creativa, spontaneamente creativa, liberatoria essa stessa. Idem l'immaginario. L'immaginario, incredibilmente, in Butler spesso coincide con una nozione molto, molto, molto oscura, insomma, con questa fantasia manipolabile, no? Altusserianamente dagli apparati ideologici di Stato, cioè. Non è mai, diciamo, anche lì laboratorio creativo e liberatorio. Quindi, secondo, perché ho posto questo problema? Non tanto per fare le pulci, diciamo, a Foucault, per carità, non mi permetterei, e al suo rapporto con la psicoanalisi, ma per porre una questione un po' più generale, della quale io sono grata alla relazione che Mario ha fatto, perché ci consente un po' di pensarla. Io mi sono convinta, la dico così in modo molto semplice, lavorando tanto sui poststrutturalisti, sul femminismo poststrutturalista e non solo sulle femministe poststrutturaliste, eccetera, eccetera, che il vero problema, diciamo, che il pensiero del Novecento ci lascia non è il poststrutturalismo, bensì lo strutturalismo. Che invece noi abbiamo smesso di problematizzare, perché ormai sta lì, no, come progenitore del poststrutturalismo, che però lo avrebbe superato, avrebbe decostruito, dissolto, eccetera. Invece no, perché è proprio con lo strutturalismo che si pone questo grande problema del rapporto tra libertà e strutture del potere. Strutture ereditate, interiorizzate, divenute inconsce, eccetera, eccetera. E a me pare che si possa in qualche modo leggere tutto quello che è venuto dopo, cioè il poststrutturalismo, come un tentativo poco riuscito, perché io personalmente non sono convinta di come lo risolve neanche Deleuze, poco riuscito di pensare la libertà a partire dalla gabbia del potere, a partire dall'essere costituiti, appunto, di pensare il soggetto costituente a partire dal soggetto costituito, che però, ripeto, secondo me resta in gran parte da fare. E quello che volevo dire è che secondo me in questa incompiutezza, diciamo, di questo passaggio teorico-pratico, perché poi è un passaggio teorico-pratico, perché il problema della libertà è quello che noi abbiamo sempre di fronte, non ce l'abbiamo mai alle spalle, è sempre davanti a noi, non è mai dietro, in Italia ancora di più, se possibile. Secondo me in questa incompiutezza non poco conta, appunto, il non fare i conti con la nozione freudiana di inconscio come istanza creativa del soggetto. Bene, grazie Utaida, che ha posto tanti problemi. Io chiederei intanto uno, se qualcun altro vuole fare porre delle domande, fare interventi, e direi che Mario magari può rispondere alla fine, no? La cosa migliore. Sì, prego. Facciamo qualche altro appunto, scusi. Allora, non so se... Sì, prego, prego. È così, che è una chiarificazione. Lei ha posto il problema dell'ospedale psichiatrico, cioè io normalmente scendo sul piano della ricerca empirica, ha posto il problema dell'ospedale psichiatrico e ha detto che ci sono convivono diversi poteri disciplinari, potere persuasivo, potere della sovranità. Questo qui come la mettiamo con tutta la, diciamo, teorizzazione che si è fatta negli anni 60, un testo che io mi ricordo, anni 60, classico, l'istituzione totale, no? Che praticamente ormai fa parte della nostra formazione, io per esempio fatto di un operatore, fatto di un direttore, insomma, sociale. E quindi io mi pongo questo problema, anche perché io ho lavorato su questo testo, cioè praticamente, empiricamente, no? Come strumento di lavoro. anche se insufficiente, insomma, però insomma era per noi, diciamo, operatori, ricercatori sociali, era un testo fondamentale. Ci siamo formati qui, in questo testo. E un'altra cosa che mi viene in mente. Qual era il testo a cui fai riferimento? L'istruzione totale di Goffman. Ah, ho capito. L'istruzione totale di Goffman, pubblicato da Rinaldi. Sì, eccetera. Quello lo conosciamo bene. Eccetera. Anche se è un po' vecchiotto, vabbè. È datato. È vecchiotto. Però, io mi sto rileggendo Aristotele. Aristotele. Ma non è l'andare indietro che c'era in attuale. Io un gigante. Rispetto a un gigante lontano. Una seconda domandina. C'è un altro testo qui che mi ricordo, Sorvegliare e punire. Che è un bellissimo testo. Uno dei migliori. Però è stata una cosa. Rispetto alla ricerca empirica di oggi, le tendenze di oggi, cioè Sorvegliare e punire ovviamente è un testo tutto sul panottismo, di sorvegliare, e il panottismo è punizione, l'educazione, eccetera, eccetera. Questo è un po', diciamo, rimane sempre un classico, per carità, che dicendo, però mi sembra che da un paio d'anni, rispetto alla modernità, alla globalizzazione, tutte queste cose, qui mi sembra un po', non è molto attuale perché le tendenze, diciamo, di oggi, certe figlie di oggi ci dicono che il carcere non è così più, e tanto è vero che ci sono testi che chiaramente parlano, anzi io ho pubblicato un libro sul carcere, ora pubblicherò un altro libricino in pensione, che sono in pensione, parlano di carcere come discarica dei rifiuti, poi non è Bauman si ribalta sul Vangelo, perché Bauman è uno di quegli autori grandi pure, però lui prende, siccome è un grande scrittore, scrive, eccetera, eccetera. Poi c'è un'altra cosa. L'ultimo libro di Gentes, La relazione tale è negata. Questo testo mi ha fatto pensare. Perché? Come è possibile? Cioè, noi abbiamo lottato per contro le manicomi, abbiamo fatto la lotta contro il matrimonio, il manicomio, lui ha lavorato con un Basaglia, la Gorizia, eccetera, eccetera. In questa intervista della Solità Negata, lui praticamente mette in discussione quasi tutto. Sì, tutto. Tutto? Non quasi tutto. E allora, io ho preso questo, perché ho fatto una lettura, diciamo, superficiale, leggero, no? Che cosa rimane in questo di Vincennes? Dopo tutta questa sua elaborazione. Allora, vabbè, io capisco contro la pescateria, ma mi pare anche contro la pescateria democratica. Non so se mi spiego. Addirittura dice la malattia c'è, praticamente c'è, basta, non c'è nessuno. È difficile anche gestirla con la psicoterapia, per lui non esistono modelli, eccetera, eccetera. Poi in questo caso può andare bene questo. Può andare bene quella psicoterapia sistemica, in altri casi la psicoterapia cognitivista, in altri casi eccetera eccetera eccetera. Quindi mi ha lasciato una profonda malinconia. Va bene, no, chiarissimo. Allora, prego. Della mancanza come grazie. Altre domande? Vorrei fare una domanda molto semplice, che anche forse un po' ingenua. Vorrei sapere se questa categoria, no, della sintesi disgiuntiva si colloca in una prospettiva o no di oltrepassamento della modernità. È semplice. Come domanda è proprio semplice. Beh, come dicono i toscani, dici stecca. Però la prima, anche se Deleuze che l'ha messa in campo, la suggestione viene da Kant, quindi sì. Oserei dire che non è una categoria postmoderna, non è postmoderna, categoria di matrice kantiana, sintesi disgiuntiva. Io l'ho adoperata sulla scorta di Deleuze, ma sulla scorta di Kant, riprendendo un filone che va da Kant a Deleuze. Come noto, Kant non era per le sintesi dialettiche, era per ha una idea della sintesi come un mantenimento dei campi di potenzialità, dei campi di tensione. Allora, altre domande? No, avevo una domanda. Prego. In che misura le tre tipologie di potere, sovranità divina e persuasione, sono, come dire, un sintomo di congiunzione di opposti? Non sono tutte e tre delle modalità verticali di potere, sia pure, come dire, pur usando delle diverse tecnologie e avendo un rapporto diverso con quella che chiama la razionalità. A me sembra che non ci sia, come dire, non è che perché si suona il pianoforte o sì, questa sia una tipologia, insomma, la tipologia soprattutto della persuasione è più pervasiva, ma non è meno verticale delle altre. Certo. Prego, Laura Pennacchi. A me pare molto interessante questa riflessione che ci avete proposto tutti e tre su Foucault, che tiene assieme, la riflessione sul potere e la riflessione sulla libertà, con tutti i limiti e le insufficienze dei risultati conseguiti soprattutto sull'aspetto della libertà. E avete anche sostenuto che dal potere non si sfugge, perché lui non sfugge. Si sfugge dal vivere associato, a meno che lo sviluppo delle tecnologie in futuro non possa davvero rendere possibile, cosa che io escludo, ma la fattura irrimediabile è un vivere assolutamente singolarizzato e individualizzato. Allora mi chiedo se la fertilità di questa riflessione assieme sul potere e sulla libertà non richieda anche di articolare la nozione del potere, le diverse tipologie del potere, perché non c'è solo la tipologia 3 che abbiamo discusso questa sera, c'è tutta la questione per esempio del potere democratico e del rapporto dell'esercizio del potere nelle forme della democrazia e tutta la questione delle varie forme di democrazia. Da questo punto di vista la gabbata ma pungente critica che percepivo nel discorso di Ida rispetto a Rawls, una filosofia sulla libertà senza potere, contrapposta ad altre filosofie del potere senza libertà, che rappresenterebbero un allontanamento da quella ricerca assieme che invece Foucault ci ha rivendicato. Però io credo che invece da quelle filosofie, che sono filosofie politiche e democratiche, ci sia moltissimo da raccogliere, da ricevere proprio ai fini dell'articolazione del binomio potere e libertà. Sì, Gabriella Bonacchi. Sì, io volevo rivolgere una domanda a Gazzini, in quanto maggiore esperto di Foucault, dei suoi scritti e di questo tema dell'eredità di Foucault, in cui io concordo pienamente con Ida. Stiamo cominciando solo sollecitazioni di tipo diverse. Non dentro le tende, io sono molto d'accordo sulle cose che diceva Ida, e rispetto alle quali però c'è qualcosa che aggiungerei, vale a dire che non ho sentito, non è stato affrontato, perlomeno non esplicitamente, il discorso del corpo. Io credo che quello sia un punto di snodo molto importante, e io lo vedrei proprio, cioè, come una sorta di percorso dalle parole alle cose fino a quell'ultimo frammento sul corpo. Non so che cosa ne pensa Galzinia, che a me è sembrato commovente e straordinariamente interessante per le cose che dice, che cioè quello ritirato dal commercio, sì, rapidissimamente dal commercio, perché Defer, l'esecutore testamentario, ha chiamato Ginevra Bompiani, ha detto fai ritirare subito. Però le cose che lui dice, infatti, una cosa soprattutto, ci sono molte questioni che affiorano, ma che hanno a che fare con i problemi che affrontava lei. Vale a dire, mi sembra che sia cambiato l'atteggiamento. Prima lo faceva cenno Galzinia quando diceva l'ultimo fu già malato e che sapeva di dover morire. Cambia atteggiamento, e mi pare che ci sia un'attenzione, per esempio, rispetto al corpo, che anche fuoriesce da quella dimensione, come dire, delle biopolitiche, dell'anatomopolitica, appunto l'anatomia, lo studio dell'anatomia come sede dei dispositivi del potere e così via. Perché c'è un atteggiamento che in qualche misura, ecco, di nuovo, mi sembra molto felice questo uso della sintesi disgiuntiva, di nuovo un tentativo di far vedere come funziona, come potrebbe funzionare il discorso della sintesi disgiuntiva, cioè in cui il soggetto, come dire, si pone in una posizione di ascolto rispetto al corpo, riconoscendone l'alterità rispetto alla soggettività, riconoscendone fino in fondo il fatto che il corpo è qualcosa che il soggetto non padroneggia fino a mai, e possiamo dare il nome di inconscio o un'altra cosa, ma lui riconosce finalmente, lui tutta la vita ha studiato appunto in questi meccanismi, e allora dice dobbiamo capire che cosa noi ospitiamo. Si tratta di una verità che noi dobbiamo ascoltare ed imparare, no? a non soffocare di più. A me sembra che ci sia qui questo riconoscimento del corpo come sede di una sintesi disgiuntiva che in qualche misura va oltre, perché tutta la vita Foucault non ha sempre la sua lotta con, non è tanto contro Freud ma è contro Lacan, cioè il tentativo di ridurre l'inconscio al linguaggio, cioè la lotta di Foucault è il tentativo di trovare di capire quali sono i meccanismi dell'umano, della natura umana, che sono un po' più concreti e meno riducibili ai dispositivi del linguaggio, no? E in qualche misura che questo testo mi è molto sembrato molto interessante. E vabbè, qui ci sarebbe appunto un'altra direzione che si potrebbe fare, perché uno dei limiti di Judith Butler è che invece questo tentativo di vedere l'eccedenza, come la chiami più giustamente, non c'è perché, cioè lei si accontenta, no? Di vedere dentro l'orizzonte del linguaggio tutto quello che c'è da capire e da vedere. Per cui, niente, volevo capire se e questo naturalmente va oltre anche al discorso della biopolitica, del discorso di Agamben sulla vita, eccetera. Bene, altre domande? No. Prego. Cioè, volevo sapere se Foucault o altri abbiano affrontato il problema di come il soggetto costituente possa, in un certo senso, così, erodere la forza del soggetto costituito, e cioè se a un dato momento, di fronte a una impostazione monolitica impermeabile che si è immedesimata nel sistema e che essa stessa, diciamo, e quindi che ritiene di dover difendere bene l'interesse generale, il soggetto costituente quale possibilità o quale modalità possa usare, salvo quelle note che può essere, non so, una rivoluzione oppure lenta erosione, ma più o meno marginale, nel complesso, nei confronti del potere del soggetto costituito. Bene, grazie. Allora direi che Mario può, certo, allora, rispondere. Intanto io ringrazio tutti perché mi pare una... dovremmo stare qui probabilmente altre 3-4 ore per affrontare tutti questi problemi grossi che sono stati posti a partire da Giacomo e da Ida e poi per finire con voi. Partirei dalle osservazioni finali. Così a batton rompiù, a briglia sciolta. Credo che le ultime cose anche mi hanno abbastanza stimolato, no? La tematica del corpo, no? E l'uscita dall'imperialismo del linguaggio, in qualche modo, che c'è in Foucault, insomma. E qua bisognerebbe veramente leggere con più attenzione gli ultimi corsi di Foucault, perché io mi rendo conto, ascoltandovi, scusatemi se ve lo dico, perché non è un'obiezione da professore, ma è un problema reale, che gli ultimi corsi dell'ermeneutica del soggetto, il governo di sé degli altri, il courage della verità, formano un blocco compatto, perché non si può parlare dell'importanza che ha per Foucault il processo di soggettivazione senza aver esaminato questi tre corsi. Questi tre corsi cambiano completamente lo scenario. Poi purtroppo è stata interrotta questa sequenza dalla morte, ma i problemi essenziali, a mio avviso, sono stati posti. Quindi io un po' lamento questo fatto che questi corsi sono appena usciti, l'ultimo, Le Courage de la Vérité, io sto curando adesso anche l'edizione di quest'ultimo per Feltrinelli, ma in italiano sarà pronto a fine anno, ma direi appena uscito anche in Francia, no? Quindi tutta la community, diciamo, non li ha ancora digeriti, cioè chiaramente non li ha ancora digeriti. Ecco, io vorrei dire una cosa, cioè rispondendo in maniera così globale, poi magari entrando nei dettagli. Evitiamo di attribuire a Foucault una teoria del potere, una teoria della libertà, un'ontologia del potere, un'ontologia della libertà. Non è fuori dai suoi registri. Anche quando Foucault analizza le dinamiche di potere, lui non parte da una teoria del potere, lui parte da un'analitica di situazioni specifiche, in cui analizza l'insieme, la complessità delle relazioni che scandiscono un certo scenario. E quindi questo va tenuto presente, per cui si rischiano delle semplificazioni abusive che a mio avviso non stanno in piedi. Io tra l'altro non sono qua per difendere il verbo di Foucault, per dimostrare che lui aveva sempre ragione, anche perché tra l'altro, questo volevo dirlo soprattutto a Ida, io non mi pongo nell'ambito, ho avuto un rapporto, ne ho parlato stamattina in università, con lui, con il suo insegnamento, estremamente libero e fuori da ogni vincolo scolastico, vincoli scolastici che dallo stesso Foucault scoraggiava in maniera radicale. Io non mi ritengo dentro il problema dell'eredità di Foucault, francamente. Io sono uno che ha utilizzato la boîte à outils, come la chiamava lui, la scatola di arnesi di Foucault, per andare in certe direzioni. Stamattina con gli studenti ho parlato di mie pratiche di soggettivazione che ho fatto all'interno dei dipartimenti di salute mentale, dove il problema della libertà, ecco, certo non ho fatto questo lavoro, ho pubblicato anche un libro su questo che si chiama Il mondo nella mente un paio d'anni fa, non ho fatto questi lavori a partire da una teoria generale dell'assoggettamento o della libertà o delle soggettivazioni, no? Ho fatto questi lavori a partire da delle pratiche concrete. L'orizzonte di Foucault è l'analisi delle pratiche di assoggettamento e delle pratiche di libertà. Quindi chiedere a Foucault una coerente teoria unitaria e del potere e della libertà, secondo me significa, cioè, voglio dire, lo si chiede alla persona sbagliata, perché non era nelle sue corde questo tipo di discorso. Questa precisazione per evitare anche alcune banalizzazioni, alcuni pericoli di fraintendimento che secondo me andrebbero comunque evitati, no? Quando ci si pone il problema di questo corpo, di questo soggetto costituente, ci si chiede in che misura questo soggetto costituente può rompere le gabbie del soggetto costituito, a parte il fatto che vi segnalo che soggetto costituente è un'espressione che uso io, che Foucault non l'ha mai usato, l'ha usata all'inizio del suo percorso per criticare il soggetto metafisicamente fondato delle filosofie del soggetto, esistenzialismo, eccetera. Però a mio modo di vedere, lui comunque sia, gira e rigira, ritira fuori il soggetto costituente, dopo averlo fatto uscire dalla finestra, lo fa rientrare dalla porta, perché diventa il problema di fondo, il problema della libertà è un problema di fondo, è un problema del soggetto costituente, appunto. Certo che non è un soggetto metafisicamente fondato, perché ha sempre alle sue spalle questa trama di lavorii, di costruzioni, di fabbricazioni, eccetera. Faccio un esempio, nel libro forse più segnato da quella che potremmo, per amore di schema, vado veloce, definire la problematica del soggetto costituito, cioè il potere psichiatrico, ci sono degli spunti estremamente fecondi in cui Foucault fa vedere che la sua non è appunto un'ontologia del potere, e lui non intende affatto il potere in termini totalitari, come macchina dispotica dalla quale non si scappa, perché analizza in tutta una serie di fenomeni, in particolar modo i capitoli dedicati alla storia dell'isteria nel potere psichiatrico, sono forse tra i più belli, la malattia come forma di resistenza, la malattia come forma di lotta e di antagonismo. Ecco, credo che queste pagine andrebbero rilette, in cui lui ti mostra un soggetto che in una qualche misura per il potere e per i poteri che gli stanno intorno è faticoso prendere dentro, è faticoso catturare, faticoso a tal punto che questo soggetto sfugge sempre, e c'è questa dimensione degli scarti, degli ecar, come li chiama lui, che emergono continuamente, e per cui lui rappresenta una specie di scenario bellicoso, no? Lui era un abile metteur en scène, no? Ecco, in cui c'è da un lato diciamo, una specie di gioco della rincorsa, cioè c'è il nosografo, il classificatore, no? Che cerca di mettere le brache al mondo, di dare alle anomalie comportamentali della gente determinati nomi, determinate categorie, salvo poi accorgersi che i comportamenti reali vanno in una direzione che la categorizzazione non aveva previsto e non include, no? Pensate per esempio, non so, faccio un esempio tratto dalla clinica attuale, questo gioco della rincorsa. Abbiamo i DSM, eh? Siamo al DSM-4R, adesso stiamo in attesa, è 3 anni che lo aspettiamo, perché sono lenti i ragazzi, no? Siamo in attesa del DSM-5, sapete cosa c'è nel DSM-5? A proposito del gioco della rincorsa, no? Cioè, perché finalmente ce ne sono accorti, ma la prima volta che verrà fuori sarà 10 anni dopo che il problema è emerso. La dipendenza dalla rete, la dipendenza da internet, perché è scoppiato nel 1993 questo problema, si sono dibattuti, scannati su questo problema, è una dipendenza come le altre, come con la dipendenza delle sostanze o no? Che caratteristiche ha questa dipendenza, la dipendenza dalla rete? Ecco. Comunque la troverete nei disturbi di personalità, nel DSM-5. Ecco, e chiaramente da quello che ho capito io, l'assetto che viene dato a questo capitolo sulle dipendenze dalla rete è assolutamente carente, insufficiente, come appunto io userei qua una frase del buon vecchio Shakespeare, no? Che diceva: ci sono tante più cose in cielo, in terra, Orazio, di quante non ne sogni la tua filosofia, o potremmo dire la tua psichiatria, la tua psicanalisi, no? La tua teoria. Cioè, ecco, Foucault mette in evidenza questo continuo gap, questo continuo ritardo, questa continua sfasatura, no? tra i movimenti della concettualizzazione e del controllo da un lato e i movimenti soggettivi che invece conquistano volta per volta determinati gradi di autonomia, insomma. E questa è una dialettica interessante da vedere, insomma, no? Proprio anche all'interno della fase del Foucault, diciamo così, il bolscevico, come ho detto io oggi, scherzando, del Foucault interessato ai processi di produzione del soggetto. No? Ecco, quindi questo. Per cui anche il discorso dell'assenza di una teoria della libertà, ma è l'ultimo pensatore a cui io mi rivolgerei per avere una risposta a una domanda del genere. Lui si è sempre rifiutato di costruire delle teorie generali e del potere e della libertà e del soggetto. Lui ha studiato degli insiemi variabili nel tempo e lo spazio che sono le relazioni. Il suo è uno studio sulle relazioni. Quindi non puoi chiedere a un'impostazione del genere una dilucidazione che vada nella direzione di una teoria della libertà, di una teoria del soggetto o dell'assoggettamento, insomma, no? Questo per dire che secondo me la domanda probabilmente andrebbe riformulata, l'interrogazione andrebbe riformulata, insomma. Poi, tra l'altro, io voglio leggervi qui un punto interessante della Courage de la Vérité, l'ultimo corso, che sto traducendo con un po' di fatica perché ci sono dei grossi problemi in queste traduzioni. Era un linguaggio parlato, sempre molto alto, ma parlato, e spesso i traduttori lo hanno un po' troppo universitarizzato per i miei gusti, insomma, no? Come dicevo a Giacomo, mi ricordo se oggi o ieri, quando glielo ho detto, che c'è questa preoccupazione spesso di addomesticare Foucault e ridurlo a creatura universitaria, a creatura accademica, cosa che lui non è mai stato in realtà, insomma. E, per farvi un esempio, insomma, dove lui dice, non cito qua, cito il peccato non il peccatore, dove lui dice in uno dei corsi, je n'ai assez de cette idée, de cette notion, ne ho abbastanza, non ne posso più di questa nozione. Il traduttore, Pierino Ligio, è preoccupato di accreditare Foucault presso la comunità degli accademici, dice, non dice non le palle piene di sta roba, che avrebbe dovuto tradurlo così al limite, se una forzatura l'avessi fatta l'avrei fatta in quella direzione lì. No, dice questa categoria è obsoleta, per dirvi. Quindi ecco. Allora, lui a un certo punto dice, nella misura in cui si tratta di analizzare i rapporti tra modi di veridizione, tecniche di governamentalità e forme della pratica di sé, la presentazione di simili ricerche, parla delle sue ricerche, come tentativo di ridurre il sapere al potere, di fare del sapere la maschera del potere in strutture nelle quali non vi è posto per il soggetto, non può essere che una pura e semplice caricatura. È invece necessaria l'analisi delle relazioni complesse tra tre elementi distinti che non si riducono gli uni agli altri, che non si assorbono gli uni con gli altri, ma i cui rapporti sono reciprocamente costitutivi. Questi tre elementi sono i saperi, studiati nella specificità della loro veridizione, le relazioni di potere, studiate non come emanazione di un potere sostanziale e invadente, ma come momento interno alle procedure attraverso le quali viene governata la condotta degli uomini, ed infine i modi di costituzione del soggetto attraverso le pratiche di sé. Ecco, io credo che questo è un punto molto denso in cui lui proprio polemizza contro questo atteggiamento. Questo è l'ultimissimo. È l'ultimissimo corso. Sì, infatti ti dico, c'è una lucidità qui. Dice una caricatura, insomma, questa rappresentazione che viene fatta, cioè lo spazio per il soggetto è già dato dentro i dispositivi. Certo, noi potremmo andare oltre qua, sento parlare dell'eccesso, cioè, ma non dimentichiamoci, qua io non è per difendere Foucault, ma è per dargli ciò che si merita. E lui ha analizzato molto spesso le forme soggettive dell'eccesso, nei suoi scritti letterari, per esempio, tutte le innumerevoli volte in cui ha citato l'esperienza di Artaud, quando ha commentato Bataille, eccetera. Quindi non è che a lui non fosse presente questa dimensione dell'eccesso, questa dimensione dell'irriducibilità. Ripeto, nella prefazione del 61 alla Storia della follia, quella che poi Foucault stesso, animato da furore genealogico, ha soppresso, c'è tutto questo problema qui, insomma. Quindi io voglio dire, starei molto attento da un lato a non chiedere a Foucault ciò che non può darci, no? Io lavoro, diciamo, su alcune categorie, su alcune anche aporie del pensiero di Foucault, cerco di portare avanti il discorso sulle pratiche di soggettivazione, ecco, senza fare riferimento, indubbiamente, se in questo senso posso essere assegnato a una certa eredità, come è stato detto di Foucault, cioè l'eredità di coloro che non si preoccupano di costruire una teoria generale. Io credo che abbiamo bisogno, negli anni a venire, più che di una teoria generale, di tante analisi specifiche, no? Sui processi e le pratiche di soggettivazione, perché non se ne può più di teorie generali, signori. Io personalmente non ne sopporto più le teorie generali. Se uno mi vuol far vedere come funziona un potere, mi deve fare un'analisi di una macchina specifica di potere. Se mi vuol far vedere come funziona la libertà, deve fare un'analisi altrettanto specifica di pratiche di libertà all'interno di situazioni complesse, altrimenti diventa ideologia, e a me non interessa, proprio assolutamente. E questo è una libertà che mi prendo io, di non tanto di interpretare, io non pretendo di essere quello che viene qua e vi dice io interpreto correttamente Foucault, no? Io ne faccio un certo uso, ne faccio un certo uso. Oggi ho letto, stamattina non ho il pezzo, in cui, quando lui parla di Nietzsche e dice che un pensiero bisogna tirarlo da tutte le parti, farlo stridere, farlo urlare, e poi che i commentatori dicano che sono stato o no fedele, non me ne frega niente. Non è un problema di fedeltà, ma non è un problema di ortodossia o di eterodossia. Ecco, quando io discussi con lui in lontani anni ormai questo problema della scuola, ecco, lui mi diceva, vedete, il motivo per cui io non incoraggio il formarsi di una scuola è che quello che detesto maggiormente è proprio questa cosa che attorno a Lacan invece ha avuto molto spazio, insomma, questo ingessare un pensiero, ridurlo a sistema, dopodiché esistono, come in tutte le messe cantate, i chierici di primo rango, i chierici di secondo rango, quelli di terzo, gli interpreti autorizzati, tutta la vicenda Lacan, Miller, eccetera, eccetera. Lui ha evitato, ha voluto assolutamente sfuggire a questa trappola, e lo fa e lo ha fatto oggi, ripeto, scusami quello che ho detto stamattina, ma è uno può inventarsi idee nuove ogni secondo momento, cioè, ha usato una serie di sistemi, di procedure. Uno, mobilità del linguaggio, no? Una dottrina per essere tale, per creare scuola, ha bisogno di essere costruita attorno a un linguaggio omogeneo. Il suo linguaggio è mobile, è fluttuante e si modifica in base all'oggetto di studio, no? Il linguaggio severo e architettonico di sorvegliare e punire non è il linguaggio pieno di impennate anche di tipo lirico poetico, che qualche cattivo esegeta ha tacciato di gongorismo, no? Il lirismo di Foucault è parte costitutiva del suo approccio ai problemi. Foucault era un essere passionale, nonostante tutto, era un essere passionale, che funzionava su dimensioni passionali. Ecco. E quindi lui ha creato questa lingua mobile, per cui è molto difficile, cioè, cosa vuol dire essere foucaultiani oggi? Cosa sei, un foucaultiano del primo discorso, sei un foucaultiano della genealogia, sei un foucaultiano dei processi di soggettivazione? No? Voglio dire, è paradossale questa cosa, no? Del cercare il sistema, la dottrina, laddove non c'è. Lui ha fatto di tutto per distruggere questo effetto scuola. Ripeto, mobilità della lingua, secondo momento importante, la cosa che ho imparato da lui, mobilità problematica, cambiamento di orizzonte problematico e subordinazione delle discipline rispetto ai problemi. Prima vengono i problemi, poi vengono le discipline. Ecco, io pongo dei problemi e mi servo di attrezzi per affrontarlo. Sono le discipline che ho a disposizione, con cui entro in contatto, poi possono esserci benissimo dei buchi, delle lacune nel mio uso degli attrezzi, no? Posso sbagliare anche nell'uso degli attrezzi, ma quello che indubbiamente va preservato e mantenuto è quello che ha creato, è stata la croce e la delizia di tanti universitari che si sono occupati di Foucault, che spesso lo hanno espulso, perché adesso danno a fare agli studenti le tesi su Foucault, no? Ecco, ogni tanto mi arriva in studio qualcuno, voglio fare una tesi su Foucault, in genere lo tratto male quando mi fanno, perché secondo me su Foucault non si fanno le tesi, però hanno fatto ostracismo al lavoro di Foucault, delle nostre accademie, delle nostre scuole di filosofia. Io spero che Giacomo possa confermarmi questa cosa. Assolutamente sì. Foucault è stato oggetto di ostracismo, ecco, perché era uno che non ragionava secondo le discipline. Ho raccontato l'episodio oggi ai ragazzi all'università, quando il cretino di turno, perché esistono, mi diceva Cipolle, gli stupidi esistono anche nei contesti istruiti, che mi dice, sai Mario, belle le tue ricerche, però tu ti occupi di Foucault, ma sai, Foucault non era uno storico, collega di Dipartimento di Storia. Una settimana dopo, stesso discorso me lo fa un collega del Dipartimento di Filosofia. Sai, belle tutte queste robe, ma Foucault non era un filosofo. Appunto era questo che imbarazzava, no? Cioè non poterlo assegnare a un comparto disciplinare. Cioè, ragioniamo per problemi. Allora, io dico, uno dei problemi sono le pratiche di soggettivazione. Lui l'ha posto in evidenza. Bisognerebbe, per esempio, leggersi con molta... prima di, diciamo... tirare conclusioni affrettate sulle le ricchezze o le povertà o le lacune di Foucault, leggersi con molta pazienza e con molta umiltà gli ultimi corsi di Foucault, perché sono tre libroni piuttosto consistenti sulle pratiche di soggettivazione. Ecco. e sul tema, grande tema, della paresia, su cui voglio dire solo una parola, la libertà di parola, no? il franc parler, parlare franco. Parlare franco, vero. Ecco, sì, di fronte anche ai potenti. Con verità, parlare con verità. E secondo me lì lui individua anche una certa evoluzione anche rispetto allo schema, dell'intellettuale organico non è mai voluto sapere, no, proprio non se ne parla, neanche dell'intellettuale specifico, che è in fondo una formulazione un po', secondo me, ambigua, che calcava quella dell'intellettuale organico sotto mentite spoglie. L'ultimo Foucault invece tira fuori questo discorso della paresia, individuando uno spazio del lavoro intellettuale che è lo spazio proprio del parlare fuori dalle ipoteche, no? Prendersi fuori dalle ipoteche, cioè io non ho alle spalle un partito, un gruppo politico che legittima quello che dico, io sono un soggetto che usa la paresia, la libertà di parola, a prescindere dalle coperture politiche che la mia parola può avere. Quindi è un invito potente, potentissimo, usato attraverso gli antichi, questa è una sua astuzia, no? Per dire, signori, cerchiamo di conquistarci questo spazio di libertà di fronte a un potere, soprattutto qui in Italia, insomma, che vuole l'intellettuale comunque scodinzolante e servo di fronte agli assetti politici costituiti. Con che io ho finito. Va bene, ringrazio molto Mario Galsigna. Questi temi saranno ripresi anche in appuntamenti prossimi del seminario e spero che possiate ritornare e essere tra di noi partecipi come stasera. Quando mi ricordo più, perché siamo troppo